Il gruppo informale Camera Sud presenta il progetto Suonare il Paese, frutto di 7 mesi di lavoro nel paese di Petronà, in provincia di Catanzaro. Il progetto ha sviluppato un racconto sonoro sul paese, fatto di suoni e rumori, che rispecchia una giornata ideale nei suoi punti salienti, dal risveglio mattutino al crepitare del fuoco che si spegne quando tutti dormono. Il progetto è stato finanziato dal programma Gioventù in Azione della Comunità Europea, un programma che si occupa di supportare le iniziative nazionali e transnazionali di giovani fino ai 30 anni. Per maggiori informazioni, www.gioventuinazione.it. Buon ascolto!